Ciao Marco, avanti Giulio. Ok, ciao Marco, se mi stai ascoltando. Sì. Beh, purtroppo il tempo era quello che era, ma lo sapevo che lui avrebbe fatto un freddo abbastanza consistente. E anche un po' di vento, diciamo, dai. Ecco, oggi ad esempio Natalie è una giornata che collaudo la Game Master, perché ce l'ha, che io ce l'ho, dunque, vabbè, l'ho già collaudata tantissime altre volte, ma per dire, no, la giornata di vento come oggi, stamattina presto c'era un vento micidiale, quando ho aperto le finestre, ragazzi, se lo stavo attento mi buttavo fuori per strada dal vento. È un ventaccio forte, ma forte veramente. Vai Natalie. Natalie. Ho acceso anche il PMR, sembra che sia giusto il canale. Volevo fare una prova con Natalino, lui che è vicino, se coincide la frequenza. Sì, è prova, dai, io ce l'ho più acceso, è acceso, prova. Non arrivo lì. Parla tu, giù. Ti sento a malapena. Eccomi. Eccomi qua. Ci sono, aspetta che mi sia agganciato una cosa, ecco qua. Il filo delle cuffie mi si era agganciato ad un pomello del comodino, per cui l'ho dovuto sbrogliare, se lo tiravo magari lo rompevo. Sì, però se pensi con un giocattolino del genere, cioè arrivi tranquillamente, in scioltezza, sicuramente è una frequenza che si propaga bene. Sì, diciamo, se le antenne, per così dire, tra virgolette, si vedono, non c'è problema. Guarda, io, sarà un anno e mezzo fa, 2 anni forse, una cosa del genere, c'era Sandro che viaggiava allora per lavoro, eccetera, viaggiava e andava molto spesso anche in Corsica, perché quel tipo di lavoro che faceva le doveva spostarsi continuamente. Ho avuto modo di sentirlo dalla Corsica addirittura, lui si trovava nel punto più alto della Corsica, adesso non mi ricordo se era Calvi o se era Coenza, non me lo ricordo veramente, forse era Coenza, fatto sta, ci siamo sentiti proprio col PMR. E tu lo vedi sempre lì, nei punti? Io a casa, allora, sempre a casa, certo. Buono. Io mi ricordo quando avevo, CB in campagna lì a zona Villa Gorizia, ci parlavo tranquillamente con la Corsica. Mi ricordo Canarino, un giorno l'ho guidato, diciamo, dal traghetto, ha fatto tutta la traversata, dopo un po' mi ha chiamato e ha sbarcato fino a casa, l'ho guidato. Sì, beh certo, ma quello con Baracchino, ma parlando con la PMR è molto più difficile, no? Se non hai il varco giusto non c'è niente da fare. Con PMR è difficilissimo, mentre invece con il baracchino io, con la Corsica, se ci fosse qualcuno ci parlerei in qualsiasi momento, in qualsiasi posizione si trovasse, perché mi ricordo parlavo con Antonio Felicetti, e cioè chiamato Corsica 1 allora in quegli anni. Parlavamo praticamente tutti i giorni, mi aveva anche invitato, lui aveva un hotel Sole Monti, aveva a Calvi e poi si era trasferito a Coenza, si era trasferito sempre facendo lo stesso lavoro e mi aveva anche invitato ad andare là, che poi tra l'altro non ci sono mai andato, ma ci sentivamo tutti i giorni, anche dalla macchina, io tutti i giorni lo sentivo praticamente. Caspita. Ottimo per la truppa. Claudio, c'è ancora? Non so, perché noi ci siamo allontanati su quella frequenza, non so che fine abbia fatto. Claudio, ci sei? Sono andato su canale 20, che forse coso o Marco aveva necessità di qualche controllo, ed è per quello che stavo facendo male, l'ha chiesto di spostarsi per quel motivo. Ah sì, ma non parla che ci sei tu che hai più memoria di me. Mamma mia. Sì, può capitare, no, non è un problema quello. Tutti quelli fossero i mali della vita. Dimenticarsi per un istante di un messaggio, no, non è così importante. Vediamo se Natalino lo riprende. Natalia, aiuto. Natalino ogni tanto sparisce. Come fa tutto? Ogni tanto si affaccia, lo salutano e poi sparisco. Sì, entra a gamba testa. e poi spariscono. Quando li rilanci, evaporati subito. Davvero, Alleluia, e vabbè, purtroppo ognuno ha le sue faccende a casa, per cui non c'è da meravigliarsi se uno si allontana. Ma io di solito quando mi allontano può capitare, sia ben chiaro, così una cosa improvvisa ti devi allontanare per forza di cose obbligatoriamente, ma di solito io quando mi allontano lo avviso, è così quando ricevo una telefonata lo stesso. Sì, a meno che mai c'è uno che ha la portante lunga e vai, tu c'è non so, ti suona un campanello qualcuno, devi mollare, non puoi avvisare. E quindi cosa fai? Pazienza, chiederai scusa al rientro. Eh beh, certo che sì, infatti in quei casi lì allora sei costretto a mollare per andare a aprire la porta, se no quello che c'è fuori dalla porta se ne va, per cui magari puoi fare lo sacco inutilmente perché non lo ritrovi più, se ne è già andato. Se c'è qualcuno vicino, magari tipo, non so, Natalino, puoi dire Natalino, bianco un attimo, poi mai lui riferisce, capito? Eh beh certo, come solitamente si fa, certo che sì, e vabbè comunque, strano che non sento ancora a Sarviglio, oggi lui è di giornata libera, dunque non lo so come mai, strano, perché l'avrei sentito, anzi diciamo che stamattina mi sembra di averlo sentito, sì, per un attimo, ma non si è addormentato. E allora sta facendo la pennichella, o perlomeno è andato in giro, oppure ha distrutto tutto. Una delle tre. Che cazzo, già lo vogliamo bene. E invece una cosa, con l'antenna cosa ha combinato? È per quello appunto che stavo dicendo, che può aver distrutto tutto. Pensando, io lo conosco da quando è nato Sabino, perché Sabino, la madre, abita praticamente nel palazzo dove io avevo la falegnameria, no? Dunque da quando era incinta la madre lo conosco. Benissimo, no? Per cui queste cose mi permetto di dire proprio perché per me è molto più piccolo, ma molto più piccolo di età di mia figlia, ti puoi immaginare, dunque lo conosco da sempre. Quindi lo conosci prima di nascere? Eh sì, perché ho conosciuto la madre quando era incinta di lui, e non solo di lui, anche del fratello, per cui ti puoi immaginare che è più grande di lui. Vabbè, si scherza, dai. Ma Franco non si sente? Vuol dire che ancora non è in zona? Beh certo, adesso sta pedalando, perché arriva con la bicicletta Franco. Prima di venire un po' male andatene allora, c'è in bicicletta. Oh, una zavorra per il vento ci vuole. Vabbè, adesso sta per arrivare, molto ci impiega da solo, a meno che non si dovrebbe preparare, ma se era già pronto che potevo uscire subito, è solo questione di qualche minuto. Ma a volte ci vuole meno tempo andare Sorso o Sinduri che attraversarmi un pezzo di città qua. Eh beh sì, in effetti è vero, cosa ci vuole? Da Sorso a Sassa 7-8 minuti, 10 minuti, vai esagerando, visto che la strada oggi è un po' bagnata, 10 minuti si a Sassari, però magari per arrivare all'ingresso di Sassari, arrivare a te, magari ci vogliono altri 10 perché c'è traffico magari. Ma io già sono qua all'inizio, là, sono all'ingresso, non deve attraversare la città, quindi già, come arriva via Pasquale è già arrivato. Sì, perché passa da quella parte lì, passa. Per cui magari scende lì dietro il Sacro Cuore e prende via, come si chiama, via di Sicilia, prende e va all'esterno dove non c'è traffico praticamente. E adesso prova a chiamarlo, aspetta. No, niente, non risponde. Ok. Tu per quello tintalo acceso il PMR, tintalo, che magari quella sì che ti chiama lui, non si sa mai. Ho sentito una portante, ma... Vabbè, può essere magari in una posizione per un attimo che ha rubato il segnale e ci sto facendo anch'io per vedere se lo sento io eventualmente. Ma no, si accende il PMR come con la portante che stata della 27 mi crea ronzio, no, niente da fare. No, non so, quella era importante, era alta. Ah, ho capito. E vabbè, dai, sta prendendo uguale. Ormai già sa come dovrebbe fare. Poi se già conosce la zona, figurati, è facile allora. Dillo mia, aspetta. Era Gio Maria invece, lo sentivi? Insomma, Gio Maria, io qua. C'è Gio Maria, c'è il PMR, era lui che rispondeva. Sare, va bene qua Gio Maria, non deve essere lontano da me. C'è il cuo canale 10? Chi è avanti? Ma solo tu c'hai coraggio, Natale. C'era Giulio, c'era Franco, c'era l'altro Franco di Sorso, Claudio. E purtroppo cosa vuoi che ti dica? Se ne sono andati tutti e c'ero io all'ascolto. Tutti scappati. Attualmente a circa, dovrebbe essere verso Porto Torres l'alto temporale. È casino, stanotte sarà peggio, Cazzo, peggio pure sarà, bobo. Beh, fino a poco fa io non potevo uscire di casa perché qua c'era tutto bianco. Quindi, insomma, una giornata molto infernale. Me lo posso immaginare, un macello. Comunque va bene la radio, Gianfra? Sì, per me va bene, no problem. Quindi adesso dovrei aspettare sicuramente, perché anche i corrieri sono in difficoltà. Che vuoi dire? Io l'ho ordinata stamattina. Stamattina l'ho ordinata e... perché mi hanno caricato la carta, ci è passato poco, capito? E quindi almeno quello l'ha risolto. Gianfra. Ehi, là, e beh, i cinghiali non sono avvicinati che c'hanno freddo. Ma era tutto bianco, il cinghiale. Una grandinata qua nel picchiato. C'erano 2 gradi. Sino a poco fa, adesso un po' è salito, 3, 3 e mezzo. Ma fuori il manometro sta segnando così. Ho detto, ma tu ci vieni al battesimo stasera? Non sarei matto. No. Assolutamente no. Non mi muovo neanche se mi paghi. Ma chi te lo devi muovere? Se lo dovevo battezzare in radio, mettiti l'abito. Ah, sì, allora se per radio. Tanto non ci vedo, mi posso mettere in calzoncini. E mi metto la camicia sopra, la cravatta. La cravatta è d'obbligo, io me l'ho già messa. Cappa, sì, anche per gli ascoltoni, per gli esseuropiori ci vuole la cravatta. Per i radiomatori la divisa, capito? Quindi Roberto ci ha preso le 6, 1/4. Adesso in mezzo sarà già in radio. Andiamo in qualche F che volevo battezzare. Ma il prete chi lo fa, tu? Sì, no, tu fai il chirichetto. No, vabbè, io faccio monsignore, dai. Assisto come autorità. No, non c'è i capelli, Gianfra. Monsignore c'è la chirica, quello lo posso fare io. Quindi se non è neanche uno, vuol dire che sono più importante. La chirica, la grande strada della chirica è in base all'importanza. Allora, come si chiama il nuovo nato? Un attimo, un po' strano gli hanno dato. India Yankee Vittoria. India Yankee Vittoria. Un po'. Spero che ce lo ricordi, ve l'ho detto, non dire in lunga V perché tanto ti inceppi. O India o Italia, Yankee Vittoria o India consegnato. Quindi hai anche visto. Perché io ho sentito qua forte. Da te, cazzo, una cazzarella da lista di roba piovendo forte, puttana. Cazzo, che balla, aspetta che diminuisco, non vorrei creare una corrente ascensionale, no, che sennò mi sento, a posto di un battesimo vengono un funerale, no, che. Allora, sono sceso al minimo della potenza in modo da non creare correnti di ionizzate, corrido di ionizzati, perché quando trasmettiamo si formano questi fenomeni. Aspetta, perché io non c'ho più l'altra antenna e cazzo è un casino questa mandorla. C'ho un fruscio allucinante dell'acqua, aspetta che passo con l'altra radio che è più selettiva. Natalie, corri a lasciare l'antenna, vai, fa stazionare. E adesso l'ho spento quello, perché c'era un fruscio anche io proprio per il temporale. E l'ho spento e sto usando quello più stretto. Là. Stiamo bene, per adesso era uno. Speriamo che si rimanga distante lì verso la nuvola. Purtroppo è un macello così. Facciamo che è peggio. Ma ci dovremmo abituare a questa situazione qua. Te l'ho detto, sono le sette pieghe d'Egitto. Speriamo che non ci mettano molto a mandarmi l'antenna. Ma vediamo. Nel frattempo sto facendo anche altra roba. Oggi è lunedì, no? Cata, quando vuoi che ritardino un po' questi rompi palle ti cercano, mamma mia, sono. Speriamo bene. Uscendo, fruscio allucinante, io. Speriamo che ci muovano di mandarmi un'altra antenna, se no non entro più. Segnali bassi, non ne arrivano qua, correr ma sempre così. Cazzo, quanto mi manca la mia Gipoglia. Sì, ma non è giornata da accenderla con l'antenna. Oppla. Meglio. È stato meglio un antennino da macchina. Infatti, cioè spengo tutto, lo appoggio qua, non manca niente, poi mi faccio il vuoto quando c'è Roberto, c'è un'antenna piccolina, bassa, qua stacco le antenne, abbasso l'interruttore. Io mi sa che attacco l'antenna interna, quella per l'emergenza, e trasmetto con quella, tanto. È una 5/8 di un metro e spicciolo, quindi anche da dentro casa funziona. È tempo brutto, c'è da fare, non c'è niente da fare. E poi sono anche di quelle cose un po' la sconfidata, perché speriamo che stia passando sul lato nord, anzi no, sul lato leggermente a sud-ovest era. Ma insomma, speriamo che ci lasci tranquillità, che non arriva una vita. Anche se questo costa poco, gli altri sono staccati. Però. Quindi tu sei a casa, non ti muovi. Cosa? tu sei da stamane a casa, perché io stamane sono uscito e c'erano 3 gradi giù di lì. Poi quando sono tornato sono dovuto tornare a passo sindacale, perché qua era tutto bianco, la strada, le macchine. Ho detto, ma dove sto andando? Boh. C'erano strisciate di macchine che se ne sono andate fuori strada. Quindi piano piano, al minimo possibile, ho tirato, nonostante le ruote larghe, comunque qualche slittatina me l'ha fatta. No, beh, cioè come termica, no, io sono uscito a accompagnare mia figlia e poi siamo rientrati, siamo andati a fare un po' di spesa, siamo rientrati, capito? Però era tutto bianco qua, era tutto bianco. Poi lì verso, dopo il centro ecologico, non c'era, c'era pochissima roba, ma era grandine. Invece da me era proprio, proprio neve, anche perché stava piovendo nel rischio, la temperatura era troppo bassa. E se rimane così bassa stanotte, domani mattina sarà tutto imbiancato qua, perché oggi non c'era neve stamattina presto. Sì, c'è neve. C'era neve, sì. Ma la grandine è anche peggio, è più carogna perché è ghiaccio. Fa strampare, stamattina sono dovuto andare qua in un negozio che c'è. Mi sono pure dimenticato la mascherina, sono dovuto tornare indietro e sono caduto in acqua, dentro un buco che c'era. Mi sono fatto a becca, sono dovuto cambiare tutto. Sono tornato a casa. Per carità. E c'è stata poco a riempire, perché io ero in macchina quando ha iniziato. Sembrava una pioggerellina, in realtà sta arrivando la pioggerellina. Fortunatamente sono riuscito a passare oltre il viadotto, perché sennò di lì c'è quella discesa ripida molto pericolosa in caso di ghiaccio, di neve e così via. Insomma, c'è stato veramente poco, all'inizio. In Chiania Guerra è mega, mamma mia che schifo questa antenna, ragazzi. Abituato all'altra, che schifo, cazzo, mamma mia. Il cuore è meglio che salita, come salita a me, no? Mamma mia che schifo questa Mantova, che schifo veramente. Sento la pioggia, sento il QRM a 5-7, con quella la manco ci muoveva, porca miseria ladra, adesso chiamo subito di mandarmela immediatamente, la rubi da qualche parte ma mi rimandi la mia antenna. Io sono a S2, S3, anzi stamane quando sto parlando con Natalino non c'è neanche la propagazione. Quindi per me va bene. Natalie, allora, se non si sbrigano poi, già lo sai in che periodo siamo, corrieri si tasano tutti. Purtroppo, io mi hanno ricaricato subito la casa, stamattina c'erano già i soldi, e me l'ho ordinata direttamente stamattina l'antenna. Dove l'hai ordinata? Aspetta che c'ho il foglio qua. La cosa mi costava un sacco di soldi da Media Globe. L'ho presa da un altro, l'ho presa. Paoletti si chiama, Paoletti Radio Comunicazioni. Io ho fatto la strisca subito, così almeno un paio di giorni arriva. E tanto mi, anche con questo tempo, si può salire tranquillamente a metterla. Vero, Cla? Dici, domani, domani, c'è un tempo bello a fare quella voli, a fare il balleggio. Passato le, un po' pranzo alle 3, passato a prendersi di antenna, perché allora Sandroni ha fatto giro che appunto c'era Nerve, quindi è salito alle 3 a fare io giro, corriere, passate sulla porta di antenna, anche spero che fatta stasera, così giovedì c'era, giovedì, ma cos'è oggi? Oggi è lunedì, lunedì, martedì, mercoledì c'era la. Va bene, ma una gaga da stamattina, ma mamma mia, gaga, per carità, un bel scarico, un bel di l'altra era silenziosa. Sì, vabbè, tanto se c'è questo tempo non è che possa stare molto in radio, se non con antenne così lunghe, ecco, magari in VHF, VHF ci viene meglio, perché anche da casa ci si sente, ma con queste bisogna stare attenti. Vabbè dai, stiamo arrivando il QRX, perché quasi quasi mi copre Natalino, veramente. Domando il QRX, adesso esco fuori a vedere cosa sta succedendo, insomma. Un QRM allucinante, adesso sta diluviando qua. Dai, sentiamo dopo ragazzi. Ok, a dopo. Natali, allora. 60 minuti già entrati. Sempre quelli sono. Sì, sempre 60 rimango. Poco da fare. Sarà accesa il piacere, sì. Ci mancherebbe, già la sera dovrà essere, da ieri l'ha accesa. Anche di notte te l'ho lasciata accesa. No, di notte no. Però già l'ho accesa stamattina attorno. Io lo sto accendendo della pompa di calore perché ero a 17 gradi, adesso se non siamo fatta lento. Oh, io. Che c'è? Coraggiosi, non ce ne sono altri, no? Tutti scappati sono da qua. Di lavorare, capito? India, io terminata lì e devo accedere a roba di lavoro, che mi hanno mandato una comunicazione urgente, proprio le solite cose. Sì, fai, fai. Che sei? Ciao Gianfranco, che sei Franco? Gianfranco, sei troppo basso, però aumenta un po', sei troppo troppi milliwatt stai usando, anzi pochi milliwatt. No, sono con 2 watt addirittura, vediamo un po', era per non generare correnti di ionizzate, capito, su antenna, perché qua c'è temporale. Ciao Gianfranco, ma però c'è un po' di rumore di fondo qua, pompe di calore varie ed eventuali, e quindi devi un po' superare un certo segnale, sennò ti ascolto un po' maluccio. Questo va benissimo. Però diciamo, essendoci tempo da in giro, adesso sembra un po' calmato, ma siccome sono improvvisi questi fulmini, bisogna stare attenti. C'è anche Natalino in ascolto, c'è anche Claudio che è uscito fuori a vedere se può camminare, a cercare i cinghiali, ma boh, lui è fissato a cenare cinghiali. C'è un po' il QRM, mai visto il QRM qua, eh? Ho capito. Vediamo un po', Claudio, sì. Non c'è. Ma io questo cinghiale ce l'ho oggi, eh. Pure io un pezzo di un quarto ce l'ho. E allora dammi una coda, che a lui piace la coda. No, io, vabbè, non so se ci sia la coda, è la fuca e la coscia posteriore. Gentilmente regalato da un collega, e quindi lo faremo al più presto, domani no, dopo domani lo farò, ce lo cuciniamo, dai. Ok, vediamo Natalino, esci fuori, su. Sto eliminando un po' di mondezza dalla foto. Ne hai il QRM tu, Natali? C'è il QRM, purtroppo c'è. Quindi è normale, dai. È normale, sarà un po' la pioggia. Qui sta mezzo nevicando, mezzo piovendo, non si capisce. Nevica, o là. Sì, infatti, ha tirato una grandinata stamattina. Sì, io ero più giù di... era San Giorgio di Alghero, dove c'era la fermata dei treni, ed era completamente bianca. Sì, via. Io più giù che mi ho ordinato l'antenna, mi pare l'aria. Cosa hai ordinato, Natale? Raghi, ma se mi ho ordinato, perché mi sono arrivati i soldi che avevo speso per quell'altra, e allora l'ho subito ordinata stamattina. Lei vedrai che ti troverai bene. Avanti. Il nome Gianfranco. Sì. Sì, fra. Stamana era veramente triste. Cavolo, andiamo bene. Io mi sto aggiornando sulle previsioni del tempo, ma mi sa che dopo domani cos'è? Dopo domani mercoledì, giovedì mi metto la muta subacquea, per carità. Boh, anche giovedì temporale al nastro. Ma domani hai messo tempo buono, eh? Beh, domani piogge. Vabbè, lo prendiamo da lui. Domani per controllo. Lo dico subito, a luna chiude chiarissimo, alle 4 sereno, alle 7 sereno, alle 10 sereno, alle 13 distante, alle 15 pomeriggio, alle 19 distante, alle 20 a coperto e alle luna martedì coperto, temperature molto basse, da 11 gradi. Vabbè, anche se arriva subito, se non fa tempo buono non faccia piazzare. Beh sì, domani è una buona giornata, però non so se ci sia vento, perché si è aperto un vento di zona, ma sta passando, diciamo, nella parte occidentale della Sardegna, tra la Sardegna e le Baleari, la Spagna. Fortunatamente la sta scaricando lì per adesso. festa natalizia, ne dice la vita, serena e poco nuvoloso con un disparo. Sì, vediamo, vediamo un po' quando arriva le pantera, te arriva. Cavolo. Signore bianco. Beh, oggi mi è arrivato qualcosa che mi hanno bloccato il rapporto, perché era impossibile consegnarlo, quindi vediamo cosa succede domani. Epa. Ma mi da dire, me ne faccio in quei rettini che devo fare cosa qua, se no è un macello. Vabbè, dai, ci sentiamo Gianfra, salutami a Franco quando entra e gli eventuali ascoltoni. Ciao a tutti. Sì, ciao Natalì, alle prossime. Eccomi. Sì, Natalì, no, chiuso in questo momento. Lo vuoi salutare? Natalì, sì. Buonasera, buon tutto, alle prossime. Ecco, poi già chiuso. Non c'è nessuno stasera? Sì, c'era Claudio poco fa. È andato a vedere se trova qualche cosa al cinghiale, ma stava anche piovendo. Oh yeah. E meno male che si accancella, sennò gli entrano davvero i cinghiali dentro. Ma lo lascia aperto per quello, non hai capito. Ci mette qualche tubero fuori e fa tipo il coso di Cenerentola. Si mette in un bel sentiero, così il cinghiale va, con i cinghialetti, appena sono tutti dentro chiude e c'è il rifornimento per tutto il mese. Deve fare, come si dice, con... con le fave, no? Un po' di fave, le semina lungo il percorso, le attrae verso l'interno del cancello, poi mette una specie di una fotocellula o un pezzo di lenza collegato all'interruttore, quando entra dentro si chiude. Infatti li fa accomodare poi, per farle la festa. Oi, oi, oi. Che giornata, ragazzi. Proprio... giornate veramente brutte. Beh, lunghe. Tranne i cinghiali, non so se li verrà bene anche a farli, ma gli verrà un po' difficile prenderli, però. Oh, yeah. Avanti, Gianfra. Una volta dentro lì sono sistemati. Li mette con la macchina. Infatti. Boh, quasi quasi adesso apro questo microfono e ci metto dentro un coso, perché a volte fa schiacciarlo, se non lo premi forte non esce. Già c'è la pistola, Fra, non ti preoccupare. Ti avrò fatto un buco in fronte, ci entra, ma non è mai entrato. E tieni conto che al mio vicino, perché i bidoni li tengo dentro, ok, nel Carverio, dietro il Carverio, lui li tiene fuori, salgono a mangiare, mangiano e poi ce ne ritornano giù, ma sono abituati, è sempre la stessa, una scroffa non molto grande, con due o tre piccoli, sale tutti i santissimi giorni, anche perché le mettiamo a mangiare, quindi se io le lascio il cancello aperto, io non lascio il cancello aperto, perché c'è il cane, capito, se no mi ammazzano il cane. Ma se io le dovessi lasciare il cancello aperto, non avendo cane, entrano, rimangono lì a aspettare a mangiare. Guarda che il mio vicino ci va attaccato, le mette la roba da mangiare, verdura, capito? E loro mangiano vicino a lui, non succede niente. No, infatti. Poi loro sentono l'odore da chilometri. Mi va che poi li dai a mangiare, li abitui guai. Vengono tutte le notti. Una volta eravamo in campeggio, mi ricordo, abbiamo preso la butta della mandetta e di notte arrivano i cinghiali, eravamo nella zona di Punta Giglio, allora si poteva fare ancora, così tra virgolette, il campeggio libero. Oh, quella fila li abbiamo illuminati in piedi, i cinghiali in piedi per riuscire ad arrivare alla busta, ma a un metro e mezzo d'altezza la busta, ma l'altra l'hanno aperta. Le vaschette l'ha fatta al forno, andavano lavate in lavastoviglie, c'erano tutte lucidate, e poi domani mattina abbiamo raccolto tutto e via, siamo andati via. Siamo tutti a stare lì, farli mangiare, basta, poi alla fine facciamo pulizia e andiamo via. mangiare le trappette. Avanti, andiamo qua. A venerdì, meno male che c'è una pompa di calore grossa, sto andando con quella lì adesso e mi sto tenendo solo l'acqua calda, ho girato solo l'acqua calda, almeno quella, però è troppo calda, non è normale, cioè l'acqua è, non dico che sia vapore, ma quasi, esce il fumo a mille. E allora è la valvola, chiamala, fatela sostituire, è la valvola. No, io dal terrazzino di sopra, quello che dà praticamente nel carrello, fortunatamente gocciola però mi crea umidità. Si deve essere spaccato qualche, c'è qualche spaccatura che con l'acqua che ha piovuto è entrata all'interno, capito? Lei li deve guardare. Non so se ci sia dalla guaina o il catrame, dai, non so come, adesso non ho presente come sia. No, ti prendi un po' di quella, un barattolo di guaina liquida, glielo passi a pennello bello, bello denso. Sì, però devo aspettare il tempo per la sua, mi sta chiamando di là dietro. Sì, sì, quella assolutamente. Dai, vai, tranquillo. Allora. Che passa, tio? No, ma dale, collega, ti vai scucciando la sardinia. Ora, compagnero, che passa? Tutto bene, mio hermano. Adelante. Major guy. Oh, yeah. Vabbè, Gianni. Oh, yeah. Cioè, ogni tanto, che in barriata leva, cioè, c'è il QRM che sembra una sirena. Stranamente, un po' ce l'ho anch'io, un po'. Qui, vabbè, basta, uno e mezzo. Però per me un e mezzo è un bel alto, sicuramente un apparecchio normale corrisponderebbe a 6-7. Ehi, adesso ha calmato, poco fa era allucinante proprio, un QRM atmosferico da paura. Beh, si sente un sacco di attività elettrica in giro. E cosa vuoi fare, dai? Beh, comunque già stiamo uscendo bene, dai. Ehi, stamattina quando ho sentito i fulmini per precauzione ha staccato il TL. Poi quando tutto si è calmato ho preso il piede in mano, cazzo, mi è arrivata questa sbazzinata allucinante. Vedete che prima è attaccato all'apparecchio, conviene appoggiarlo a qualche parte metallica per scaricare un po' di corrente, capito? Non stare attenti, ti può bruciare anche l'apparecchio. Infatti, cioè, prima l'ho preso proprio per farlo scaricare, ma come ha preso il piede in mano mi ha dato la botta, L'hai fatto tu da terra, l'hai scaricato tu, dai. Ah no, sì, infatti mi sono caricato di energia. Poco fa ti ho intravisto, passai, mi sembravi un po' più luminoso del solito. Eia. Troia, non fine più, noi siamo solo all'inizio. Vabbè, fine anche questa pioggia, piano. Mi sta facendo già il muscolo sotto le ascelle a me, per non dire altre cose. Intuisco, dai. Vabbè, tra un po' servirà per il presepe. Ma voi ci siete a lavoro? O hai fatto turno, come si dice? Va. Sì, no, stamattina ero di mattina. Ho fatto 7:10, 14, cioè 13:40. Bene, Mela. E io vorrei addrizzarmi lo stilo che non vuole visto, è tutto bigiato, però con questo tempaccio non è possibile. E ho visto che era un po' leggermente piegato, leggermente, boh. Però qui arrivi bene, vabbè, qui si è vicino, non è che influisca più di tanto, è una questione più estetica che altro. L'ho già riaddrizzato diverse volte, quindi il materiale si è ammorbidito in quel punto e quindi anche addrizzandolo tende a piegarsi. L'ho girato già un paio di volte, da sopra, però devo trovare il modo di robustirlo almeno per 20-30 cm, così almeno evito che si pieghi di nuovo. Avete un tubicino di PVC, quelli in plastica per... per impianti elettrici, non so anche le misure se potrebbero coincidere. No, c'ho su nel terrazzo sono dei vecchi elementi di una banda, di un'antenna della UHF della TV, e ci sono degli elementi vuoti in alluminio dei tubicini, dai, che facevano da radiali. Voglio provare a innestarli uno di quelli 20-30 cm in modo da tenere un attimino un po' più rigida lì, capito? Ma si piega vicino alla giuntura o più su? No, no, è sempre lì, è sempre a quei dove c'è l'innesto, dai. Tra i 10 e 20 centimetri tende sempre a piegarsi in quel punto, ho capito? Sarebbe bello prendere tutti e due i pezzi, tutti e due gli elementi, in modo che trasformare in un unico pezzo. Ehi, te l'ho detto, faccio l'innesto, siccome lì era a vite originariamente, praticamente si era marcito tutto, quindi ho dovuto fare una crocchia, ho trovato praticamente un, come si dice, un tubo di rame, quelli che si usano per l'acqua, di una sezione stretta. Sono riuscito a fare una crocchia, praticamente un innesto che unisce i due elementi con degli spessori, però il problema è che si bicia sempre il subunto, compreso. Purtroppo una volta si piega una volta si indebolisce. No, quindi un po' la potete arrangiare, dai. Te l'ho detto, cioè prendo una cannuccia di quelle d'alluminio di una vecchia antenna